Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci qui, Ferry Boat. Io sono Insargante, attraccatore. Questa settimana, dopo i viaggi intercontinentali della scorsa puntata, vi ricordate, l'Uganda, il Kenya, ci fermiamo, restiamo in casa, in particolare restiamo in azienda, perché vedete, l'economia sociale e quindi i cambiamenti che il mercato ci propone per virtù o per necessità si basano essenzialmente, se non soprattutto, sulla capacità dell'impresa di interpretare questi nuovi mondi economici, sociali e quant'altro. Dunque, sulle risorse umane, qui stiamo parlando delle persone che lavorano dentro l'azienda, della loro capacità di vivere l'impresa e di sviluppare questi nuovi mondi. Quindi ascoltate un po' il nostro sommario e le nostre proposte di oggi. Il 42% ce l'ha, il 18% quasi. Alle banche italiane, per comunicare con i dipendenti, piace la TV, purché rigorosamente via web. Ambienti Amo. Non è l'ultimo libro di Moccia, ma un mega progetto di comunicazione per dipendenti bancari dal pollice e dal consumo verde. Più balli, meglio lavori. Ecco la corporate music al ritmo latinoamericano. E come vedete è un bel mix di argomenti, aspetti, facce di una stessa medaglia, il rapporto fra chi lavora in azienda, l'impresa e il mercato. Maurizio Incletolli è qui con noi, buongiorno Maurizio Incletolli. Buon pomeriggio Enzo, a te e agli ascoltatori. Responsabile della comunicazione interna e direttore della Web TV dell'Associazione Bancaria Italiana. E prima di entrare in argomento, Maurizio, la verità è che la comunicazione interna, che poi è l'argomento di oggi, si basa su tre parole che potremmo citare per intenderci subito: conoscenza, competenza e appartenenza. Queste sono le tre parole chiave nel rapporto fra chi lavora in impresa e l'impresa stessa. Sei d'accordo? Sono d'accordo Enzo, e del resto quando si vuole rafforzare il senso di appartenenza a un'organizzazione, il contenuto educativo è soprattutto quello che conta e che deve essere somministrato, sì, ma ecco, attenzione, con un po' di misurazione, senza dimenticare che l'apprendimento è più efficace, direi, se addolcito dall'intrattenimento, e per fare questo la TV, che hai citato, è lo strumento per eccellenza. Ecco allora che il contenitore televisivo va riempito però di messaggi che riescano a coinvolgere il dipendente in veri e propri percorsi di miglioramento anche professionale e comportamentale, tanto per fare un esempio, un cartoon che magari suggerisca il buon utilizzo della posta elettronica, oppure una fiction con veri attori che simuli il giusto comportamento da tenere durante una riunione di lavoro. Bene, vediamo subito allora, anzi ascoltiamo, visto che siamo una radio, subito qual è la Web TV di cui stiamo parlando. Tre canali tematici per favorire conoscenza e dialogo. Cronaca e fatti economici che interessano il mondo bancario e finanziario. Eventi che l'ABI dedica agli associati o testimonianze di personaggi illustri del nostro tempo. Intrattenimento su attualità, tendenze e formazione, con un orecchio anche alla musica e un occhio alle arti per conciliare tempi di vita e di lavoro. Infine, grande spazio dedicato a chi, attraverso il video, vuole narrare agli altri la sua attività, lanciare un nuovo progetto, spiegare il significato di termini tecnici, dispensare chiarimenti su regole o procedure interne. Essere, insomma, protagonista, oltre che utente, del mezzo televisivo. Fra tutte le iniziative possibili, fra tutte le web TV possibili, probabilmente, anzi sicuramente, Maurizio Incletolli, quella bancaria, quella dell'ABI, la tua insomma, è quella più difficile di tutte. Beh, difficile, diciamo che siamo di fronte intanto a una TV giovane che a meno di 2 anni è un po' prematuro forse fare dei bilanci. Abbiamo puntato su 2 fattori, ecco, fattori che a questa distanza di 2 anni si rivelano un po' vincenti. Prima, aver messo la persona al centro della scena, il collega della scrivania accanto, come quello che lavora in un'altra città, ma l'impiegato alla stregua del dirigente, averli resi al tempo stesso attori e protagonisti del piccolo schermo aziendale. È un po' questo il segreto, un segreto si fa poi per dire, perché di fatto sarebbe un flop non mettere al centro dell'attenzione le persone in aziende come quelle bancarie, che notoriamente hanno nel lavoro intellettuale il fattore primario della produzione, direi. Ma c'è, permettimi, un secondo fattore che ritengo determinante per il successo di qualsiasi web TV aziendale, non solo quella dell'ABI, è la scelta del format televisivo giusto, quello che sappia dare risposta a precise esigenze di comunicazione e aggregazione di cui parlavamo, che sono naturalmente diverse poi in relazione a diverse culture aziendali. aziendali. Come pure, chiudo, un format che sappia attrarre grazie a una formula diretta, chiara, soprattutto sintetica, come quella del messaggio televisivo. Ecco, perché qui c'è da dire, beh, intanto giova ricordare a chi si ascolta che l'Associazione Bancaria Italiana rappresenta gli interessi del sistema bancario e finanziario italiano nel suo complesso, quindi i tuoi ascoltatori, per usare un termine, come dire, popolare, sono le banche stesse. L'altra domanda, che è quella forse chiave, che un po' segue il discorso che hai appena fatto, è... ma la televisione aziendale non può essere fonte di distrazione dal lavoro anziché strumento di lavoro? Guarda, abbiamo pensato a questo. In realtà la nostra è un palinsesto non invasivo perché si modifica non più di due volte a settimana. Inoltre è una TV on demand, nel senso che i suoi programmi sono selezionabili e fruibili dai dipendenti in qualunque momento della giornata lavorativa, quindi conciliabili con gli impegni di lavoro individuali. Questo penso ci metta al riparo da qualsiasi problema. Un'altra scelta difficile, complessa, è quella di combinare adeguatamente, nella misura giusta, la parte, diciamo, educazionale, no? Che poi può essere anche professionale, con quella dell'intrattenimento, del gioco, se no diventa difficile da, come dire, da gestire uno strumento così invasivo. Naturalmente, confermo quanto ti dicevo prima, che tutto va misurato in questo mix, diciamo, ideale, che poi fa della comunicazione interna, diciamo, la vera perla dell'azienda, quella che aiuta, educa, ma anche inserisce dei comportamenti virtuosi che fanno dell'azienda un'azienda d'eccellenza. Vediamo adesso una variazione sul tema. Ve la propongo però non presentandovi l'ospite subito, ma lasciando che ascoltiate quest'altra proposta di comunicazione interna. Oggi Gianni ha davanti a sé una giornata di lavoro molto piena. E per risparmiare tempo, butta la cartuccia usata nel primo cestino che ha a disposizione. Sì, lo so, ho sbagliato, però oggi proprio non ho tempo. Per disattenzioni come queste, ogni anno centinaia di milioni di cartucce vengono disperse nell'ambiente e non possono più essere riutilizzate. Vogliamo provare a cambiare le cose? La fretta non è una buona scusa. Abbiamo sempre 5 secondi per fare la scelta giusta. E questa? Non sai dove gettarla? Forse hai bisogno di qualche informazione. Vai in intranet ed entra nella sezione Mia formazione. Clicca su Ambientiamo. Troverai test e giochi che risolveranno in modo semplice molti dei tuoi dubbi. Bastano pochi minuti per sapere come gestire correttamente i rifiuti. Chi si informa sta già partecipando. Ah, un piccolo consiglio. Crea uno spazio sulla tua scrivania per conservare i fogli usati solo da un lato. Potrai utilizzarli per gli appunti o per stampare delle bozze di documenti. Ecco, avete sentito, vi rendete conto dell'enorme forza che può avere uno strumento di questo genere nel, come diciamo, sull'immaginario collettivo di chi lo ascolta in generale. Se poi a usare questi linguaggi, questi mezzi è per esempio una grande banca con 75.000 dipendenti, voi capite che stiamo parlando di un mass media a tutti gli effetti. Roberto Battaglia, responsabile formazione Intesa San Paolo, salve. Buonasera, buonasera dottor Argante. Lei praticamente ha una sua televisione. Adesso in questo paese avere le televisioni non è per molti, quindi insomma, certo, è un privilegiato. Ed è una bella responsabilità quella di parlare con una popolazione così vasta. Certo, una bella responsabilità, e direi soprattutto la nostra responsabilità è quella di riuscire a mettere insieme diversi canali come la TV, anche noi abbiamo la nostra web TV aziendale, con altri canali formativi per riuscire a realizzare degli interventi che poi puntino realmente all'efficacia e riescano a catturare l'interesse delle nostre persone. Ecco, in particolare noi ci tenevamo alla sua testimonianza perché, lo dico con una totale franchezza, Ambientiamo è un'iniziativa del settore di cui lei è responsabile, della formazione della banca, dell'enorme banca Intesa San Paolo, che punta a responsabilizzare i dipendenti sui temi dell'ambiente, del risparmio energetico e del consumo sostenibile. Come funziona? Ci faccia capire di che cosa stiamo parlando. Ambientiamo. Certo. Beh, intanto con Ambientiamo abbiamo voluto mettere insieme due elementi. Da un lato la nostra sensibilità ai temi dell'ambiente. La nostra è un'azienda particolarmente attenta a queste tematiche, non solo perché anche al nostro interno poniamo molta attenzione all'uso consapevole delle energie, e ovviamente abbiamo anche una nostra offerta che supporta i nostri clienti all'utilizzo di queste energie, ma abbiamo anche voluto sperimentare delle nuove modalità, dei nuovi linguaggi formativi che, come dicevo, mettessero insieme questi diversi mezzi. Ambientiamo è un percorso formativo cross-mediale che integra tutta una serie di metodologie e di strumenti che nel tempo abbiamo sviluppato. È un'iniziativa completamente a distanza, nel senso che offriamo ai nostri 75.000 colleghi in Italia e tra non molto agli altri 35.000 che lavorano all'estero un pacchetto di stimoli, di interventi formativi che aiutino più che a partecipare a un'iniziativa formativa tradizionale a coinvolgersi anche a vicenda, direi, su tutta una serie di tematiche che riguardano l'uso delle energie, riguardano poi anche tutto il tema dei rifiuti, eccetera. Lei diceva cross mediale, spieghiamo per chi non è proprio, come dire, addentro a questa tecnica, proprio l'utilizzo di diversi modi e metodi di comunicazione. Quello che abbiamo ascoltato, che cos'era esattamente? Quello che abbiamo ascoltato è uno degli spot che noi abbiamo realizzato e che ci aiutano ad introdurre le tematiche di Ambientiamo nei confronti dei nostri colleghi. Abbiamo usato questa metodica per poter sviluppare complessivamente questo livello d'attenzione che attraverso una serie di stimoli audiovisivi realizzati e distribuiti attraverso la nostra intranet aziendale, quindi attraverso la TV, portano le persone a iniziare con una sorta di gioco che misura le proprie capacità, misura il proprio livello di sostenibilità ambientale e poi porta le persone a lavorare in veri e propri percorsi interattivi che da un lato misurano ma dall'altro costruiscono questa sensibilità di cui le parlavo. Quello che mi piace sottolineare di questa iniziativa, ce ne sono anche altre sul mercato, ma questa certamente colpisce, un po' stupisce per le dimensioni corpose che ha, la comunicazione interna in questo caso, quindi l'aspetto educativo nei confronti del dipendente che travalica i confini dell'azienda, in questo caso della banca, perché se voi parlate con 75.000 dipendenti sono 75.000 famiglie in teoria, a parte quelli che si sono sposati fra di loro, però insomma tendenzialmente questi sono i numeri. Certo, questi sono i numeri e vorrei sottolineare un aspetto che lei ha toccato. Comunicazione e formazione sono due dimensioni che inevitabilmente si incrociano. Infatti questa iniziativa è realizzata anche in parte con la collaborazione delle nostre funzioni comunicazione. Come lei ha detto prima, conoscenza, competenza e appartenenza sono tre aspetti che utilmente orientati aiutano poi realmente a creare da parte delle persone un riorientamento dei comportamenti in senso virtuoso. È una vicenda che avrà un seguito, no? Cioè voi cambierete argomenti, si svilupperà nel corso dell'anno ma anche degli anni a futuri e forse diventerà una vera e propria enciclopedia la vostra. Certo, l'idea è di continuare in questo percorso che già in queste prime settimane di avvio ci sta dando grossi ritorni, devo dire, dal punto di vista dell'interesse, allargando poi questa idea della sostenibilità in generale ad altri aspetti come la mobilità, che rappresenterà la prossima tappa di questo nostro percorso. È proprio il caso di dire mobilità prossima tappa, ne sappiamo qualcosa Feribot, grazie ancora a Roberto Battaglia. Grazie. Maurizio, è un'esperienza che va, come dire, rasente la formazione, no? Cioè un po' esce anche dai binari interni in questo caso. Ma si evidenzia, la formazione e la comunicazione, come diceva Roberto, hanno un confine molto labile in un certo qual senso. La formazione però ha un ruolo decisivo nella cultura d'impresa come lo ha la comunicazione e può fare molto sul fronte dell'educazione ambientale di cui oggi si sente tanto il bisogno. In questo senso direi che l'esempio formativo di Impresa San Paolo rappresenta un po' una best practice da incoraggiare in altre aziende bancarie, soprattutto per migliorare la percezione che i dipendenti e la stessa clientela a questo punto hanno di un'azienda socialmente responsabile. Ci fermiamo qui per il momento, la linea Strade in diretta fra poco. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Crescere in azienda è il tema di questa puntata, all'insegna di tre parole chiave che abbiamo individuato anche con l'aiuto di Maurizio Incletolli, responsabile della TV dell'ABI e della comunicazione interna. Le tre parole sono conoscenza, competenza, appartenenza. Lavorare in azienda e vivere soprattutto i nuovi mondi dell'economia sociale vuol dire avere una sensibilità, un'attenzione diversa, non solo ai temi sostenibilità, i classici temi, ma proprio anche alla vita dell'azienda e ai suoi meccanismi. È il caso, per esempio, di Roberto Mircoli, salve Roberto Mircoli, che è il marketing mediterraneo della Sisco. Un saluto a voi. Che abbiamo chiamato dopo aver ascoltato della VTV dell'ABI e della campagna Ambientiamo di Banca Intesa, perché Sisco ha una storia veramente interessante da raccontarci, grazie ad un prodotto che poi è vostro, che si chiama Telepresence e che serve agli incontri virtuali, alle riunioni a distanza. È proprio così. E come dice lei, ne facciamo un utilizzo piuttosto intensivo al nostro interno, oltre naturalmente a offrirlo ai nostri clienti. Ma Telepresence è un sistema che rende possibili esperienze di comunicazione e di incontro a distanza, mettendo le persone in condizione di collaborare in modo del tutto inedito ed efficace utilizzando la rete. Quella della telepresence è un'esperienza abbastanza immersiva dal punto di vista personale e che viene resa possibile da un insieme di sistemi anche piuttosto sofisticati, di audio, video, per condividere contenuti di varia natura, ad altissima fedeltà, ed è tra l'altro anche molto semplice da usare, che è il fattore che la rende così, diciamo, anche frequentemente impiegata. Io non ho visto proprio il vostro strumento, lo farò, ma ho visto alcune immagini, la sensazione è che ci si immerga dentro uno schermo quasi a 360 gradi, cioè una partecipazione molto forte, diciamo. Sì, dopo pochi minuti che la si utilizza, di fatto ci si dimentica di essere di fronte a degli schermi, sì, grandi, ad alta definizione, ma si perde la percezione dello strumento e si guadagna quella ricchezza di comunicazione, anche nella comunicazione appunto a distanza, di riunioni virtuali, che è legata proprio a quei messaggi non verbali che vengono trasmessi quando due persone o due o più persone si incontrano, che viene trasmessa dai gesti, dal tono della voce, dall'incrocio degli sguardi. Ecco, tutti questi insiemi di fattori sono quelli che rendono la collaborazione tra i team di lavoro al nostro interno molto efficace e ha un impatto anche molto positivo sulla produttività della nostra organizzazione. Beh, vorrei sottolineare, perché ho preso degli appunti fedelmente durante i nostri contatti, che questo si traduce poi in risultati veramente incredibili dal punto di vista del, per esempio, diminuzione dei viaggi di lavoro, piuttosto che impatto ambientale, costi. Un po' di numeri ce li dà? Ma sì, guardi, tenga presente che contiamo più di 700 unità che abbiamo installate nelle nostre varie sedi. Soltanto nell'ultimo mese l'abbiamo utilizzati per fare qualcosa come 30.000 riunioni tra interne, con clienti o con partner. E in tutto il mondo, ovviamente, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sì, parlo del mondo. Ecco, in Italia ne abbiamo una decina di questi sistemi tra le nostre varie sedi di Milano, Roma e Monza. E come dicevo, sì, in effetti sì, teniamo tutto abbastanza misurato, per cui a parte, diciamo, il beneficio di utilizzo ergonomico eccetera, poi ci sono delle precise metriche che io che qua leggo osservate. 440 milioni di dollari risparmiati dal 2006 ad oggi. Abbiamo così potuto ridurre significativamente il numero di viaggi di lavoro che facciamo in una multinazionale come la nostra, erano una voce di spesa molto elevata, e nel circa 3 anni da che la stiamo utilizzando abbiamo abbattuto della cifra che diceva lei, i costi di viaggio. Però a questo si sono aggiunti anche, abbiamo conteggiato circa 170 milioni di dollari di valore in termini di aumento di produttività dei dipendenti, legata proprio alla riduzione di quei tempi morti che altrimenti le persone, quando viaggiano in maniera fisica, inevitabilmente trascorrono, non so, nelle sale d'aspetto degli aeroporti, piuttosto che comunque in maniera molto meno produttiva che appunto durante le interazioni di lavoro. Insomma, ci guadagnano tutti, a questo punto aggiungiamo pure anche la famiglia, perché viaggiando di meno decisamente, no? Cioè, gli aspetti umani del lavoro. Guardi, lei sta parlando con una persona che in questa azienda ha un ruolo, faccio parte di un'organizzazione che si occupa, come diceva presentandomi, del Mediterraneo, è una regione che ha 7 paesi, 3 religioni diverse, 6 lingue, 3 fusi orari. Necessariamente la mia giornata lavorativa, e qui parlo proprio in modo autobiografico, ha a che fare con tanti incontri nell'arco della giornata che fisicamente non potrei fare di persona, non potrei mai spostarmi nell'arco della giornata da Madrid a Barcellona a Londra. Oltretutto però questo, usando la telepresenza, non solo riesco a farlo, ma riesco anche a tornare a casa la sera un'ora decente per cenare con la mia famiglia, e questo penso che sia la dimensione personale a cui faceva riferimento lei, la qualità della vita migliorata. Complimenti allora e buon appetito, spero che sua moglie cucini bene. Grazie Roberto Mircoli. Maurizio, queste sono le nuove frontiere della tecnologia, da cui poi il famoso 2.0, anche per la tua VTV si prospettano tempi ancora più, come dire, attrattivi. Ma che dire, Cisco è l'eccellenza in termini di tecnologia. Ovviamente oggi si pensano molti strumenti. Il problema di molte aziende è il fatto che ce ne siano tanti e non siano integrati tra loro. Mi sembra che la soluzione Cisco vada nella direzione giusta. Però per fare questo occorre che strumenti più tradizionali, come le stesse web TV di cui abbiamo parlato prima, facciano veramente un salto generazionale. Cioè vanno pensati in una dimensione partecipativa, proprio per favorire in modo che il mezzo televisivo non resti strumento che dispensa soltanto informazione senza poi produrre feedback contraddittorio, e insomma senza quel dialogo che rappresenta poi il succo della comunicazione, e in questo penso che le tecnologie ci daranno una grossa mano. Decisamente così. Poi c'è qualcosa di, come dire, usciamo per un attimo dagli aridi numeri e dall'arida tecnologia, ci sono alcuni aspetti del vivere in azienda, del crescere in azienda, che possono essere solo ed esclusivamente piacevoli. Queste sono percussioni, riconoscete in qualche modo, anche se l'esecuzione non è perfetta, i ritmi latinoamericani, e questa musica ci introduce al nostro ultimo ospite della puntata, Fernando Salvetti, che è del Logos Knowledge Network. Salve Salvetti, salve Salvetti, non è male. Salve a tutti. Salvetti è in questo momento a Parigi e si occupa di, noi stiamo parlando di corporate music in realtà, cioè di usare la musica per fare che cosa, Salvetti? In casa abbiamo 115 persone di una multinazionale che stanno sperimentando insieme per la prima volta in vita loro che cosa vuol dire diventare un'orchestra di samba brasiliano nell'arco di 2 ore e mezzo, non sapendo nulla di samba brasiliano. In questo caso è cooperazione, condivisione di strumenti musicali, di qualche criterio per suonare insieme, e poi un po' di rispecchiamento, un po' di feedback, come diciamo noi in gergo. Questo tipo di corporate music, ma in specifico qui è Vittorio Simonelli, che è il capo dell'equipe della Samba, che ha coordinato e realizzato questa operazione, ne facciamo tante. E sono molte le aziende che utilizzano la corporate music, funziona? Funziona. Beh, funziona, non può che dire di sì, evidentemente. Potrei anche dire di no, perché non l'ho sposata, faccio il broker di metodologie per lo sviluppo professionale in azienda, quindi prima scelgo, cerco e acquisto per rivendere quelle che mi sembrano funzionare meglio. Non sono io che faccio fare il samba, in questo caso ho trovato e scoperto già negli anni passati Vittorio Simonelli, così come a volte scopro altre persone che sanno gestire altre metodologie basate sull'arte per far sviluppare le persone all'interno dei contesti organizzativi, per far vivere esperienze memorabili che davvero si ricordino e che lasciano qualcosa di utile e di piacevole. Funziona perché è sufficientemente semplice da poter essere ingegnerizzata anche su grandi numeri, cioè abbiamo lavorato fino a 800 persone. Grazie Fernando Salvetti, è un tema che sicuramente svilupperemo, quella delle motivazioni di cui ti occupi a livello internazionale. Salutaci Parigi e usciamo di nuovo al ritmo della samba da quest'ultimo incontro per chiudere in bellezza, se possiamo dire così, Maurizio Incretolli, sfruttando il fatto che non c'è la TV in questo caso. Musica è uno degli strumenti che una delle motivazioni che hai utilizzato molto, che usi nella tua televisione. Ma non c'è dubbio, la musica è una leva eccellente, chi può negarlo? E anche la TV dell'Abbi si è voluta cimentare, le ha dedicato un format lo scorso anno in 10 puntate per aiutare le persone a integrarsi meglio nel contesto in cui vivono, ma in azienda come in famiglia. Lo scopo è quello di migliorare il rapporto con gli altri, oltre che con se stessi, perché è la musica che meglio può farci conoscere e gestire le emozioni. Non è un caso che lo stesso grande Tolstoi definisse la musica come la scenografia delle nostre emozioni, quindi direi che è un'arma vincente. E direi che come chiusura della nostra puntata non poteva essere più poetica. Grazie a Maurizio Incretolli, ci sentiamo presto. Grazie in redazione ad Anita Panizza e in regia a Pietro Lacorte. Ferribot finisce qui, alla prossimo appuntamento. Ricordatevi che su www.radio24.it è possibile riascoltare questa e anche le altre puntate.